funzione. È la performativa, l'atto performativo. È solo per chi lo fa, diciamo, di mestiere, nel senso che dedica la sua vita a questo, è un atto speciale, ma in realtà è un atto che tutti dobbiamo compiere, e la nostra vita stessa è un atto performativo. Qui, il teatro, per quanto mi riguarda, è il veicolo attraverso il quale possiamo cambiare la qualità della vita dell'intero genere umano. Insieme all'Atlante sentiamo anche il centro della testa, dal quale parte il raggio più profondo verso il cielo. Inserita in questa traccia sonora una chitarra che dà gli impulsi vocali, quasi come le corde della nostra voce, le corde della chitarra si comportano più o meno allo stesso modo, solo che il nostro fiato le stimola, le attraversa mentre la chitarra viene pizzicata. Ma su queste note cerchiamo di lavorare in vocalizzo, in modo da raccontarci una storia, raccontare una storia alle nostre ossa che stanno imparando questo lavoro. Per esempio, una storia al coccige per sbloccarsi, per rilassarsi se ci fa male. Interagiamo con la strumentazione. Interagiamo con tutta la musica, ma vi dico, la chitarra ha poi questo in più che vi fornisce anche delle somiglianze con le corde vocali, e quindi ti può aiutare, ti può dare l'atto, ti può dare il punto di riferimento, dal quale voi potete abitare tutto il resto del piano sonoro. valore che dobbiamo spostarci da una vecchia idea della voce, perché la voce è qualcosa che è partito dentro di noi da sempre, dal primo vagito che abbiamo messo, ma poi l'abbiamo sviluppata, anche non abbiamo lavorato, però l'abbiamo sviluppata come il battito cardiaco, come qualcosa di autonomo, di automatico. Per togliere questo automatismo, prima di tutto per come la vivo io, insomma, la poesia che vi offro io è un momento di disegno come un sogno per scrivere che c'è bisogno di una morte e di una rigenerazione di questa facoltà che abbiamo, per poter fare in modo di lavorare coscientemente, di dirci ok, da questo momento in poi decido che voglio essere cosciente della mia voce, che la faccio rinascere io la rimetto al mondo, io mi rimetto al mondo.